ha fatto la rassegna stampa e si è occupato delle prime corrispondenze. Dunque, allora, questa mattina, una mattina in cui affrontiamo da un punto di vista redazionale una serie di aspetti molto importanti, perché è periodo di riforme. Il governo tecnico guidato da Monti le ha annunciate al momento del suo insediamento e praticamente una dopo l'altra sono giunte o stanno per giungere in porto. Un insieme di misure che lor signori, soprattutto poi nella figura della ministra al lavoro Elsa Fornero, hanno sempre valutato, insomma, come come dire, legate. Infatti molto spesso le hanno definite una riforma complessiva del ciclo di vita. Ora, probabilmente, insomma, l'invito a ragionare in merito ad esse in modo complessivo resta valido. Certo è che, insomma, ci stiamo accorgendo quanto realmente probabilmente si stiano riformando complessivamente il nostro ciclo di vita, nel senso che quest'ultimo sembra sempre più aderire alle necessità e alle esigenze del capitale, a cui di fatto, insomma, le nostre vite rimangono sempre più sottomesse. Riforma delle pensioni, poi riforma del mercato del lavoro, riforma degli ammortizzatori sociali. Se potesse, probabilmente farebbe anche quella della formazione, anche se non le compete, ma insomma sarebbe probabilmente l'ultimo tassello, benché, insomma, anche quel campo sia ormai dal 2008 con i tagli completamente alla deriva e la situazione pure della scuola sia drammatica. Ma insomma, in questo momento tutti gli occhi sono puntati soprattutto sulle questioni inerenti alle pensioni e in modo particolare ai conteggi sbagliati che un governo, seppur tecnico, quindi guidato da professoroni, in effetti ha evidentemente errato, ha fatto male ai conti, perlomeno così si dice. In realtà, insomma, evidentemente probabilmente non è proprio così, anzi direi che la questione degli esodati, un neologismo, insomma, che è stato inventato proprio in queste ultime settimane, perché effettivamente non è che significhi poi tanto, ma rappresenta, possiamo intenderlo un po' come una metafora di questo governo e del suo progetto, che è quello praticamente di cancellare, annientare qualsiasi tutela all'interno del mondo del lavoro, per qualsiasi figura all'interno del mondo del lavoro, tale per cui alla fine davvero, insomma, non siamo più niente, siamo al di là di qualsiasi garanzia riguardo la questione previdenziale, al di là di qualsiasi garanzia riguardo le condizioni lavorative e salariali. E evidentemente, insomma, la figura dell'esodato rappresenta un po', insomma, così l'obiettivo probabilmente ultimo di Monsieur Le Capital, insomma, quello a cui evidentemente si tende. E insomma, la vicenda degli esodati, appunto, da questo punto di vista ci appare esemplare. Noi questa mattina ne parliamo, certo ne parliamo anche però in considerazione di quella che è stata la riforma delle pensioni, che è stata varata qualche mese fa e che è scattata a partire dall'inizio dell'anno, è collegata chiaramente anche a questa riforma del mercato del lavoro, di cui già abbiamo iniziato a parlare qualche settimana fa, ma insomma oggi magari approfondiamo ancora di più quello che è contenuto all'interno di questo pacchetto, e lo facciamo, insomma, con una serie di compagni e compagne, di compagni soprattutto, che sono venuti, ecco, infatti, che sono venuti a trovarci. e quindi insomma siamo in buona compagnia, possiamo sviluppare il dibattito da più angolature e magari insomma da questo punto di vista possono anche aiutarci i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici chiamando allo 06 49 17 50, magari prendendo spunto dalle prime considerazioni che verranno fatte qui dagli studi e poi magari intervenire nella seconda parte di questo redazionale. Dunque, io innanzitutto do la parola a Ettore, che magari insomma inizia proprio con inquadrarci bene la questione. E la prima questione probabilmente ha anche a che fare con i motivi per cui si è arrivati a questa situazione, poi magari cerchiamo anche di spiegare come mai ci sono così tanti esodati, al di là del balletto dei numeri che in questi giorni insomma così ha rapito l'attenzione dei più. Io proprio su questo ti volevo subito correggere. È sbagliato assecondare questi con queste terminologie, questi neologismi, e chiamare esattamente le cose come stanno. Quelli che loro definiscono esodati sono gente uscita, espulsa dal ciclo di produzione, e fino a oggi queste persone potevano uscire dal ciclo di produzione in quanto c'era tutta una serie, che per me erano già insufficienti, di ammortizzatori attraverso la cassa integrazione e la mobilità lunga accompagnata fino al raggiungimento del diritto di pensione. Correggendo esattamente, perché i termini sono questi, cioè gli esodati sono espulsi dal ciclo produttivo, che fino ad oggi venivano ammortizzati, diciamo in questo modo, attraverso una serie di interventi come cassa integrazione e mobilità lunga, l'accompagnavano al raggiungimento del diritto previdenziale, cioè i famosi parametri che già erano devastanti, che aveva fatto la riforma Dini 35-60, cioè i 35 anni minimo e 60 minimo di età per andare in pensione, e poi questi subentravano in pensione. Quando dicono i numeri, vedi, dire che hanno sbagliato, gli dai una giustificazione. Io penso che questi invece l'hanno proprio meditato, cioè l'hanno scelto in questo modo, e i numeri che dice la Fornero e i sindacati confederali sono a conoscenza perfettamente che coincidano, perché quelli che cita la Fornero sono solo quelli lavoratori in cui hanno fatto degli accordi trilaterali, governo, Confindustria e sindacati. Poi ci sono tutta una serie di miriadi di accordi che sono bilaterali tra lavoratori e dipendenti, e lavoratori e azienda, no? Messi così, a fiducia, a parola, magari con qualche rappresentante sindacale locale, e quelli non le calcolano, non l'hanno calcolato. Poi ci sono una miriade che vanno al di fuori di quei 350.000 che denunciano i sindacati, che sono tutti quei lavoratori che lavorano in piccolissime aziende artigianali, dal fabbro, dal falegname, al muratore, no? Questi che lavorano in piccole aziende, 4-5 dipendenti, che per motivi della crisi chiudono, e con questo sistema hanno concordato, dice, beh, vabbè, licenziamo a te che c'hai 59 anni e mi tengo quello di 30, perché tanto tu fra un anno vai in pensione. Questi sono da un anno di licenziati, cioè disoccupati già, però con l'aspettativa che al compimento del 60° anno questo aveva raggiunto il diritto di pensione, se ne sarebbe andato. È arrivata la Madonna di Civitavecchia, ha deciso, ha fatto il miracolo, non ci sono più pensioni d'anzianità. La Madonna di Civitavecchia, quella che piagne, prego, la versione piagnona, a Torino sorridono, e quella sanguinava. Allora questa ha preso all'improvviso, ha detto, da in Italia non ci sta più la pensione d'anzianità, a prescindere dalla partita contributiva e abolito questa situazione, mettendo nel disastro tutto quello che avviene, perché poi questa questione dell'espulsione dal ciclo produttivo non è che se finisce perché lei ha abolito la pensione d'anzianità. Cioè, quando sarà l'aggravamento? Ecco perché si collega nettamente con l'articolo 18, perché vogliono le mani libere, il ricatto sempre continuo sui lavoratori, precarizzare tutto. Il signor Marchionne, che collega tutti i due piemontesi da quelle zone, insomma, voglio dire, operano là, no? Quando ha sfruttato alle catene di montaggio della Fiat che te rompano dopo 4-5 anni a fare le stesse mansioni con i ritmi che vuole lui, che fine gli faranno fare a quelle persone che cominciano a superare i 55 anni con gli acciacchi che vengono per chi sta normalmente, proprio con l'età? Questi verranno tutti quanti trovati formule di licenziamento per motivi economici o per motivi così, utilizzeranno, non essendoci più il vincolo dell'articolo 18, che oggi possiamo pure chiamare l'articolo 14, perché l'articolo 14 di questo disegno di legge che stanno discutendo in Parlamento, e utilizzando questa situazione saranno una miriade di persone a loro, e questo disastro sociale non gliene frega niente. Io poi, per lasciare pure la parola all'altri, dico solo una cosa: stamattina mi leggevo un articolo che parlava di ferrovieri. I ferrovieri il 21 fanno uno sciopero di 24 ore e soprattutto i macchinisti, perché a loro gli hanno questa condizione di andare in pensione a 66 anni le rende assolutamente rischioso, nel senso, questi guidano treni, fanno turni improbabili, lavorano su 24 ore, è arrivata una certa età, non sarebbe più questa responsabilità di stare là, rischiano tutti i giorni a viaggiare su sti treni, e poi in queste condizioni, con l'età che avanza, loro dicono non è assolutamente considerato, e scioperano assieme i manovratori, che sono quelli che agganciano i treni, che fanno con quei ferri pesanti, chi l'ha visto alle stazioni, vorrei vedere uno che ha superato i 60 anni come fa. E Bon Moretti utilizzerà l'espulsione di questi pure attraverso l'utilizzo, no, di questa liberalizzazione del mercato del lavoro, come dicono loro, lo liberalizziamo, famo tutti come gli schiavi, così come trattano gli africani alla raccolta, vogliono trattare tutti quanti nello stesso modo, così siamo tutti uguali. E questa è l'equità di questo governo. Quando parlano di equità, prendono l'ultimo e dice: noi facciamo le cose eque, vi mettiamo tutti pari agli ultimi. Cioè, e questo è un fatto equo, questo è l'obiettivo. Ecco perché, al di là dei tecnicismi di cosa comporta, non comporta, io penso che va ripreso in prima persona, con tutti i problemi, i rischi, il conflitto, ma a un livello adeguato all'attacco. Nonno il corteo con la trombetta e la bandierina e il cappellino sfilato, magari fa incazzare Alemanno perché violenti Roma, perché i commercianti non possono vendere i propri prodotti, no? E poi ritorna a casa e rimane così, perché gli esodati sono venuti a Roma, sono venuti molto di più di quanto se ne aspettava CGIL e CISL e UIL, e però il giorno dopo sono finiti. Anzi, lo stesso giorno Fornero ha detto: non dite cazzate perché sono solo 60.000, perciò non piangete sopra, poi se ce ne stanno di più vedremo cosa succede, eventualmente gli diamo la nuova indennità di disoccupazione, 600-700 euro, ma poi ce l'avranno i requisiti per poter entrare dentro questo regolamento da indennità di disoccupazione? La parola gli do a Giangi, così entra nel merito più. Ma io sono, oltre ad essere un compagno, lavoro nel settore pubblico, un settore che fino ad oggi è stato relativamente protetto rispetto al settore privato, e che questa cosa probabilmente terminerà presto, visto che le modifiche dello statuto dei lavoratori si applicano anche al settore pubblico, quindi la possibilità del licenziamento facile che si coniuga, e non sembri un assurdo, con l'obbligo di rimanere al lavoro mediamente 5 o 6 anni in più, come per esempio succede a me, con il divieto di appunto andare in pensione secondo le regole precedenti. E, ecco, da una parte si costringono le persone a rimanere più tempo al lavoro, ovviamente precludendo la possibilità ai giovani di prendere il posto di chi appunto dovrebbe andare in pensione e non ci va, e dall'altra invece si facilita la possibilità di licenziare, si facilita enormemente, perché già oggi in Italia è molto facile licenziare. Non è vero che c'è una garanzia del posto di lavoro nel settore privato, e quello che il governo Monti, con o disonestà o stupidità, io propendo per la prima ipotesi, visto che il professor Monti non è un cretino e sa bene quello che sta facendo, soltanto che lo spaccia per spaccia gli obiettivi contrari a quello che sta effettivamente portando avanti. Monti è dello stesso orientamento di Berlusconi, però è molto più efficiente e ha diciamo un modo di comportamento che ha illuso milioni di persone, perché hanno pensato che adesso, trattandosi di una persona rispettabile che non è dedito, insomma, a passatempi personali discutibili, ma può parlare in ambito internazionale circondato del generale rispetto, sia un vantaggio per il nostro paese. Bene, io credo, forse per alcuni sarà un'eresia, che Monti è peggio di Berlusconi. È chiaro che non sto rimpiangendo Berlusconi, ma la sua efficienza da banchiere, che appunto difende esclusivamente le banche e le aziende, è un pericolo veramente molto grosso per la tenuta sociale di questo paese, e penso anche per la democrazia. Non vorrei fare un discorso troppo generico, perché io mi ero preparato un'analisi di questo famigerato articolo 14 della riforma del lavoro, confrontandolo con il precedente articolo 18, diciamo ancora in vigore, temiamo solo per poche settimane, finché non verrà approvato dal Parlamento la nuova normativa. Ecco, quello che volevo dire è che anche da un punto di vista economico, perché dico che è disonesto il tentativo di Monti? Perché ci sono persino premi Nobel dell'economia, ma che dicono non è possibile tirare fuori dalla crisi un paese se si agisce solamente dal punto di vista della riduzione del deficit di bilancio, dal punto di vista delle liberalizzazioni nel campo del mercato del lavoro, e non si investe per sostenere la domanda e non si investe per contrastare la recessione. Essendo un liberista puro, Monti non può fare queste cose, perché significherebbe aumentare il deficit che lui invece vuole ridurre, e quindi qual è l'obiettivo? Quello di consentire a quel 5% di italiani, forse anche meno, comunque alle aziende di sopravvivere alla tempesta a qualsiasi costo, ovvero al costo di ridurre la base produttiva, di consentire licenziamenti e quindi di fare in modo che le aziende possano sopravvivere. Poi se la grande maggioranza degli italiani non ce la fa più, dal suo punto di vista interessa poco, perché in una fase successiva, in cui tutti saranno più o meno ridotti alla fame, sarà ideale per ricostituire i profitti poter costringere i lavoratori ad accettare appunto salari da fame e una disciplina all'interno del posto di lavoro che la democrazia neanche sa che significato abbia, perché qui si sta reintroducendo la dittatura assoluta del padrone o del dirigente all'interno del posto di lavoro. Questo tra l'altro è un risultato dal punto di vista del paese e è destinato al fallimento, quindi la disonestà di Monti, la disonestà intellettuale è quella di spacciare queste misure come aiuto per i giovani perché loro possano trovare lavoro, far uscire l'Italia dalla crisi e ritornare a delle ipotesi di crescita che vengono smentite persino dal Fondo Monetario Internazionale o da organi quali il Wall Street Journal e altri, diciamo, esperti del mondo capitalista. Non la faccio troppo lunga su questo, l'ho detto solo perché effettivamente va rimosso il governo Monti, ma va rimosso da un movimento di massa che prenda ben coscienza di quello che hanno confezionato e che stanno confezionando questi signori. Sul discorso della riforma del lavoro, sull'aspetto del licenziamento in uscita, gli svantaggi, diciamo i peggioramenti rispetto allo statuto dei lavoratori sono assolutamente evidenti. Praticamente la possibilità di poter essere reintegrati all'interno del posto di lavoro è limitata alle licenziamenti per discriminazione. E ora io non so quanti casi ci possono essere di imprenditori e datori di lavoro che mettano nero su bianco: io ti licenzio perché sei nero magari, o perché mi stai antipatico, o perché sei una donna e quindi non mi va che tu abbia dei figli. Idioti di questo genere è difficile trovarli, insomma, per cui al di là di questi casi che probabilmente si conteranno sulle dita di una mano, se mai ci saranno, quello che viene peggiorato drasticamente è tutto un universo di casistica che consente invece mano libera all'imprenditore. Anche quando si va in giudizio, lo stesso giudice ha le mani legate rispetto alla possibilità di reintegrare il lavoratore, perché tutto viene demandato al cosiddetto rimborso finanziario, no? Il lavoratore viene licenziato, gli si dà un tot, tra l'altro addirittura diminuito rispetto a quello che era previsto prima, mentre prima si partiva da un minimo di 15 mensilità, adesso si è scesi a 12 e si arriva a un massimo di 24, e questa compensazione finanziaria viene addirittura peggiorata da una novità assoluta, cioè in pratica il lavoratore deve dimostrare nel periodo in cui viene licenziato di essere stato diligente nel cercare un altro lavoro, ovvero se per cercare di sopravvivere, no? Una volta che è licenziato magari ha trovato un altro lavoro. Nel momento in cui si calcola il quanto l'imprenditore dovrebbe dargli per questo licenziamento, quello che ha guadagnato facendo un altro lavoro, no, per cercare di sopravvivere, sottolineo, viene detratto. Quindi praticamente o ha trovato il lavoro e viene detratto, oppure non l'ha trovato, ma secondo chi? Non si sa bene, no? Siccome non è stato abbastanza diligente, se non ha trovato il lavoro viene detratto uguale, come se l'avesse trovato. Quindi oltre al danno la beffa, cioè è un tipo di norma che se trovi il giudice particolarmente sensibile alle ragioni dell'azienda ti condanna, oltre a essere morto di fame per tutto il periodo che non ti hanno pagato, a non avere neanche il rimborso, perché loro immaginano che non sei stato bravo tu a trovare il lavoro in Italia e quindi, non so, avresti potuto guadagnare in 6 mesi 6.000 euro? Ebbene, io detraggo questi finti 6.000 euro dalla somma che ti dovrebbe dare il padrone perché ti ha licenziato. Cioè, siamo alla vessazione pura e semplice, non è soltanto... Però Gianni, c'è da dire pure che i rimborsi, i risarcimenti vengono dati se tu riesci a vincere, che dimostri che il motivo economico non c'è, perché se la motivazione è giusta, sei licenziato e basta, non viene manca una lira. Cioè, dopo ha fatto tutta sta fatica di dimostrare che sei stato licenziato ingiustamente, il giudice ti dà ragione, oltre a tutte queste vessazioni che dicevi tu, ti dà ragione e ti fanno tutta sta cosa. Ma se il giudice ti dice guarda che c'ha ragione l'azienda perché i motivi economici sussistono, tu ci hai perso pure i soldi della causa, il tempo e non piena lira, senza considerare che l'obbligo di andare in conciliazione all'ispettorato del lavoro, in cui lì l'ispettorato determina pure alcune condizioni, che se non l'accetta e vai dal giudice come lavoratore, diventa un fatto già di colpevolezza questa situazione, perché se la proposta che ti fa l'ispettorato di lavoro a te non ti sta bene e vai dal giudice, il giudice deve tenere conto di questa tua non volontà di raggiungere l'accordo in maniera negativa, no? Voglio citare un altro aspetto prima di concludere, perché ovviamente si potrebbero anche leggere queste norme, ma dal punto di vista radiofonico penso che l'effetto sia vicino allo zero, diciamo, come possibilità di comprensione, perché gli stessi avvocati trovano difficoltà in alcune enunciazioni di questa cosiddetta riforma. E c'è un'altra cosa particolarmente odiosa: il fatto che al comma settimo di questo maledetto articolo 14 viene prevista anche la possibilità di eliminare il lavoratore che non abbia più l'idoneità psicofisica. Ora, se soprattutto nei lavori usuranti o anche magari quelli pericolosi, un lavoratore riceve un danno, magari viene ferito, non ha più la stessa efficienza ovviamente che aveva prima dell'incidente, ebbene è possibile, grazie appunto a questa legge, mandarlo via, non trovargli magari una sistemazione più adeguata all'interno dell'azienda che tiene conto del danno grave che ha ricevuto, ma fargli perdere, oltre alla salute, oltre alla capacità motoria e lavorativa, anche il posto di lavoro. Quindi è di una iniquità, di una ingiustizia, di una crudeltà questa cosa, che secondo me, per concludere, ha solo il senso di creare all'interno dei posti di lavoro un regime di terrore. Di terrore puro, in cui il comando del padrone, dell'amministratore delegato e io temo anche nel settore pubblico del dirigente o del capo, insomma, della struttura pubblica, fare in modo che appunto il comando sia ristabilito in una maniera autoritaria assoluta, e far sì che tutto, non solo la produttività ma anche i comportamenti, la cosiddetta disciplina, siano sotto il pieno controllo di chi dà, insomma, questo maledetto salario al lavoratore o alla lavoratrice. Ecco, questo effetto è forse una delle cose non dette più importanti, perché in un periodo di crisi come questo la pace sociale, quindi l'impossibilità di fare gli scioperi, di mobilitarsi, data dalla paura, è la ricetta più sicura perché i profitti possano risalire, perché l'azienda possa tranquillamente delocalizzare. Del resto lo stesso Monti l'ha detto: l'azienda deve essere libera di produrre dove vuole. Questo sembra le parole di Marchionne, no? Che sta mandando a scatafascio la Fiat in Italia e sta investendo sia negli Stati Uniti che in altri paesi, fregandosene se migliaia di lavoratori vengono licenziati, e soprattutto del fatto che i contribuenti italiani, tramite lo Stato, nei decenni hanno erogato miliardi a questa azienda, no? E quindi le viene consentito ancora di più. Quindi, concludendo, è un governo classista, terrorista nei confronti della classe lavoratrice, contro cui non ci può essere nessun accordo, e tutti i sindacati che diciamo non si contrappongono frontalmente a questa politica sono in qualche misura conniventi. Ripeto, anche il settore pubblico non è più al riparo da questo tipo di evoluzione, anzi involuzione. Basti pensare a quello che è successo in Grecia, in Spagna: non solo riduzioni dei salari ma anche licenziamenti massicci di dipendenti pubblici E lo sottolineo perché in una città come Roma il settore pubblico è un settore importante, è un settore ancora troppo addormentato rispetto a quello che sta succedendo, e è il caso di darsi una svegliata, perché questi non si fermano. O li fermeremo noi come lavoratrici, lavoratori, come precari, come disoccupati, come base sociale, oppure ci faranno a pezzi. Allora, io adesso cederò anche la parola a Marco, che è qui con noi, in modo da fare un giro completo su, diciamo, un po' tutto lo spettro degli argomenti che sono stati messi al centro della discussione. Do soltanto alcuni elementi, così, da un punto di vista, alcuni dei quali semplicemente informativi. Il primo è che comunque la questione della riforma del lavoro da oggi è, diciamo, al centro delle valutazioni delle cosiddette commissioni tecniche, e che dopo, insomma, approderà nuovamente nei due rami del Parlamento per l'approvazione definitiva. Intanto, insomma, queste commissioni sono formate da quasi tutti dirigenti di impresa o comunque consulenti di impresa, ed è un primo dato che va messo in rilievo. Poi invece ritornerei, visto che si è parlato molto della questione relativa all'articolo 18, ritornerei anche alla questione degli esodati, e mi sembra comunque che alcune parole che siano state dette prima da Giangi centrino molto, insomma, la questione, perché in definitiva è vero, appunto, che con la riforma delle pensioni si è innalzata l'età pensionabile, quindi si andrà in pensione a 66 o 70 anni, ma è pur vero che le imprese ci cacciano via molto prima dal posto del lavoro, insomma, per cui quello è un punto effettivamente nodale. Si parla molto dei giovani che farebbero fatica a trovare occupazione, ma si parla molto poco di quanto, insomma, la categoria degli over 50 negli ultimi anni sia veramente al massacro totale, insomma, e questo mi sembra un aspetto che va comunque sottolineato. Riguardo alla questione degli esodati, peraltro, mi sembra che faccia capolino e alberghi purtroppo anche presso, diciamo, strati di lavoratori e lavoratrici l'ideologia dell'avversario, come diciamo si registrava a proposito della questione dei fannulloni all'interno del pubblico impiego, perché in molti sostengono, ad esempio, che questa questione attenga anche a, come dire, le magagne, insomma, del lavoratore che cerca di mettersi d'accordo col datore di lavoro, soprattutto nel momento in cui c'è la definizione, insomma, di accordi di carattere individuale. Poi il lavoratore esodato, cioè che esce prima in attesa del pensionamento, in realtà andrebbe a fare uno, due, chissà quanti lavori. Un po', diciamo, si sente anche questo, purtroppo. Sappiamo invece, e questo dobbiamo dirlo, che la questione a monte è scatenata dal fatto che le imprese fanno gli esuberi, e questo, insomma, va detto e va sottolineato. Io adesso do la parola a Marco. Sì, niente, io non mi addentro negli aspetti, diciamo, della normativa sulla riforma del mercato del lavoro e sulle pensioni, sia perché molto è stato già detto sia in questa trasmissione sia in molte altre trasmissioni che si sono prodotte in queste settimane qui a Radio Onda Rossa, e sicuramente di nuovo ci torneremo nei prossimi giorni. Penso invece che sia necessario un minimo di riflessione rispetto al che fare. Questo, e da questo punto di vista credo che sia opportuno, insomma, anche per chi sta all'ascolto, intervenire, proporre, aprirsi a un confronto. Dico questo nel senso che si è detto dell'articolo 18, si è detto della questione dell'allungamento dell'età pensionabile, della situazione specifica dei licenziati ai quali dovevano essere traghettati verso la pensione, e così non sarà. mentre al limite si è detto di meno di altri due aspetti che si ricollegano a quello che era stato proprio l'intervento introduttivo di questo spazio, e cioè al fatto che complessivamente l'intervento cosiddetto riformatore del governo Monti, ma insomma un intervento riformatore che è nato da diversi anni, a prescindere da quale sia la compagine governativa, peraltro Monti in questo è fantastico perché tiene insieme tutte le coalizioni possibili e immaginabili. In questo processo di asservimento della vita al capitale, questo è quello a cui stiamo assistendo, per cui sicuramente uguale rilievo dell'articolo 18 e quant'altro hanno sia gli interventi sulle tipologie contrattuali a termine, interventi che o non ci sono all'interno di questo articolato o sono punitivi per i lavoratori, basti pensare all'apprendistato o ai contratti a progetto dove la crescita della contribuzione finirà per ricadere esclusivamente sui lavoratori, oppure gli interventi che riguardano gli ammortizzatori sociali con un drastico taglio nella durata e nell'entità delle indennità per chi perde il posto di lavoro, ma anche gli interventi che in maniera anche provocatoria, perché poi in Italia scontano il problema su un welfare fondato sulla famiglia, e quindi gli interventi che dovrebbero favorire il lavoro delle donne, che in realtà insomma si riducono all'imposizione di 3 giorni di congedo parentale obbligatorio per i padri, in alternativa alle madri peraltro su 2 di questi 3 giorni, e dicevo, sono interventi che hanno appunto questa prerogativa, quella del servimento totale della vita dei lavoratori, delle lavoratrici, quindi della vita in adulti, agli interessi di produzione del profitto, dentro il quale c'è quindi necessità di anche creare un grosso esercito industriale di riserva, quindi una grossa fetta di disoccupati e di persone in cerca di lavoro. Da questo punto di vista in Italia si lamenta molto il fatto che ancora è bassa la cosiddetta occupabilità, cioè il numero di persone disponibili a lavorare, soprattutto questo appunto per la struttura familistica del welfare che costringe le donne a non poter lavorare molto spesso. Però non è che noi auspichiamo invece il lavoro come liberazione, e da questo punto di vista tutti quei concetti che purtroppo anche all'interno di settori diciamo cosiddetti di movimento tendono a rendere il lavoro come il nodo centrale rispetto al quale costruire la propria esistenza non ci aiutano assolutamente, perché pongono il lavoratore sempre più asservito a quel rapporto di sfruttamento che appunto chiamasi lavoro. E allora quello che credo sia necessario iniziare a riflettere, lo butto qua insomma proprio per sinteticità, e anche perché mi auguro insomma che possa suscitare degli interventi, insomma un dibattito, sono 2 questioni. La prima, l'inutilità delle organizzazioni sindacali. Se questa è una questione che i movimenti hanno posto all'ordine del giorno già dalla fine degli anni 60, con appunto l'irruzione dei movimenti autonomi della classe, dico oggi proprio la struttura economica, produttiva, sociale, di organizzazione della società lo rende manifesto a tutte. Oggi i sindacati, diciamo sia quelli buoni, cioè che effettivamente sono interessati al benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, sia ovviamente ancor più quelli che invece sono al servizio delle imprese, sono un ente inutile anche abbastanza costoso, visto che molte esternalizzazioni di servizi pubblici sono state fatte a favore dei sindacati. Gli enti bilaterali sono un altro meccanismo peraltro estremamente valorizzato da questa riforma del mercato del lavoro, e che ricade anche lì con dei prelievi sulle buste paga di ognuno di noi che ha un posto di lavoro. Ma a parte questo, la loro stessa strutturazione nella suddivisione fra lotta economica, sociale, politica, bla bla bla, proprio per quello appena detto, proprio per l'introduzione che pure ha fatto Luciano all'inizio di questo redazionale sulla servimento dell'intero processo di vita al capitale, risultano assolutamente, nella migliore delle ipotesi, inadeguati. E quindi questo è una prima riflessione che poniamo, che perlomeno io pongo sul tappeto, no? Rispetto a come costruire invece istanze di auto-organizzazione e quindi di formazione autonoma dei soggetti sociali per contrastare questi processi. Il secondo invece, il secondo elemento che volevo porre all'attenzione è quello di una proposta, cioè quella di costruire un momento di confronto, quantomeno cittadino, da qui a un mese e mezzo, diciamo, insomma, verso la fine di maggio, perché parliamoci chiaro, insomma, nulla, anche per quello che è il clima che si respira all'interno dei luoghi di lavoro, ci fa pensare che sia realizzabile, poi mi auguro chiaramente di essere smentito, ma sia realizzabile un'effettiva mobilitazione che impedisca l'approvazione di queste norme, o al limite qualche piccolo cambiamento ci potrà essere. E quindi dicevo, la costruzione qui a un mese e mezzo, di un'assemblea cittadina che, proprio per quanto appena detto, veda insieme le istanze sociali, cioè a partire dai pochi, al momento purtroppo, luoghi di lavoro dove si sono costruiti organismi auto-organizzati, e però che veda partecipi le soggettività territoriali, le soggettività studentesche e tutte le forme di organizzazione del conflitto che hanno al centro appunto il contrasto al dominio del capitale e quindi il conflitto capitale-lavoro come referente delle proprie iniziative, al di là che queste poi operino contro le nocività su un territorio piuttosto che contro un padrone particolarmente sfruttatore, in maniera anche da collegare e da portare dentro la partecipazione delle lotte i settori disoccupati, i settori precari, tutti quei settori, cioè, che non hanno oggi una possibilità di espressione così fra virgolette semplice, per quanto semplice non lo è per nessuno. Questo anche perché, se noi vediamo, no, anche dai dati, che nel giro di due anni si è perso 1.100.000 posti di lavoro fra i lavoratori under 34, insomma fra i cosiddetti lavoratori giovani e giovanissimi, quindi oggi ci sono 1.100.000 occupati in meno rispetto al 2008, quindi 3 anni. È chiaro che i settori che più possono esprimere capacità conflittuale, ma proprio perché questo è un qualcosa che va riconosciuto proprio da un punto di vista di storia, insomma, dei movimenti, sono proprio i settori più giovani, e quindi è chiaramente necessario trovare dei processi di mobilitazione che partano da questi settori, o che perlomeno li coinvolgano fortemente. Quindi costruire un momento di assemblea e di confronto che non sia, come fatto insomma in passato, un confronto fra i vari Cremaschi, Leonardi, Bernocchi e i vari personaggi che rappresentano questa o quella corrente di movimento, di sindacato, come vogliamo dire, ma che sia un confronto direttamente fra soggetti sociali che sono in mobilitazione. Dentro questa proposta, insomma, che rivolgiamo alla città, si inserisce per esempio la mobilitazione del 25 aprile prossimo, che proprio abbiamo intitolato Festa della Liberazione, liberiamoci dal lavoro, che è una mobilitazione in sciopero con assemblea davanti alle Leroy Merlin Porte di Roma, organizzata appunto dall'Assemblea dei Lavoratori e delle Lavoratrici di Leroy Merlin, proprio perché il 25 aprile c'è chi magari è abituato a fare la scampagnata o a farsi il corteo nel centro città la mattina prima della scampagnata, ma purtroppo oramai da molti anni ci sono tantissimi lavoratori appunto che lavorano E in special modo, insomma, con la liberalizzazione degli orari negli esercizi commerciali, che sempre più si è andata ampliando fino alla totale liberalizzazione decisa dal governo Monti a dicembre, che oramai, insomma, sono asserviti all'attività lavorativa 365 giorni l'anno, insomma, anche a Pasqua e Pasquetta molti centri commerciali erano aperti. E allora abbiamo pensato, insomma, quale miglior liberazione se non quella di liberarci dal lavoro, quindi organizzando uno sciopero, un'assemblea dalle 9:12, per poi andarci a fare appunto la famosa scampagnata all'Orto Insorto a Via degli Angeli, dalle 13, appunto, per mangiare e stare insieme. Dicevo, pensavo di portare questo tipo di proposte, se volete anche provocazioni, insomma, quanto detto relativamente all'inutilità delle organizzazioni sindacali, come proprio stimolo a un confronto, insomma, che possa essere utile, oltre che a descrivere gli interventi del patronato, anche a cercare di costruire delle risposte organizzate. Perfetto, insomma, quindi sono state lanciate diverse proposte a fronte, insomma, di discorsi anche di analisi riguardo le misure, insomma, varate dal governo che stanno per divenire definitive. Questa dello sciopero del 25 aprile, insomma, così prima di andare in pausa, anche questo è un altro frutto amaro, insomma, delle magnifiche sorti e progressive di questo sistema capitalistico. Chi l'avrebbe mai detto qualche anno fa che si sarebbe potuto dichiarare lo sciopero del 25 aprile, insomma, oggi praticamente ci siamo ridotti anche a questo. Quindi è stata chiamata il 25 aprile, fu uno sciopero generale, no? Sì, sì, però. Sì, esatto, in un contesto un po' diverso. E dunque, allora, il numero di telefono è 06 49 17 50, e ci si può esprimere chiaramente liberamente, sia per magari di cercare di così fornirci degli elementi o delle chiavi di lettura che magari abbiamo dimenticato, che proprio non ci sono venute, insomma, anche perché appunto i nostri non volevano essere dei discorsi esaustivi, e sia proprio per invece entrare nel merito delle questioni sollevate, anche delle proposte. Quindi oggi, insomma, l'attività sindacale è, a questo punto, visto che comunque è stata lanciata la questione, insomma, è chiaro che il riferimento ai sindacati di base, per quanto ci riguarda, forse è ancora più interessante e stimolante, insomma, da dibattere, proprio perché comunque perché fanno parte, hanno sempre fatto parte, insomma, del panorama della conflittualità e dell'antagonismo sociale, così come la questione relativa proprio a un appuntamento di costruzione assembleare e di confronto. Forse una telefonata già era arrivata, io comunque vado un attimo in pausa e così vediamo un po' se squilla il telefono. Yeah. changing every time. You was a punk too. You was a mod. Skin for mother just Two buzz and lager and a packet of crisps, please. Two buzz and lager and a packet of crisps, please. I'll have some pickled onions and a little bit of cheese, please. Thank you. Allora rientriamo in voce quando mancano 5 minuti a mezzogiorno. Questa è Radio Onda Rossa 87.900 in FM. Dunque si discuteva delle varie riforme che stanno sconquassando ciò che è rimasto del welfare in Italia. Insomma, la situazione era quella che era, perché di fatto lo stato sociale nel nostro paese è sempre stato compresso e storicamente anche utilizzato, insomma, soprattutto per mantenere l'ordine più che per fornire sicurezze sociali. Insomma, senza dilungarci su questo terreno, ma sicuramente è servito anche per favorire, insomma, il clientelismo e corruzione in Italia. Insomma, c'è stato anche questo e c'è tuttora. Ma al di là di questo, insomma, quei brandelli di welfare che ancora erano rimasti dal punto di vista, ad esempio, previdenziale, riguardo appunto le tutele fornite ai lavoratori e alle lavoratrici, stanno chiaramente per essere polverizzate. Tutele, lo ricordiamo, è bene sempre ribadirlo, che certo, insomma, anche quelle non è che qualcuno le ha regalate, né possono essere considerate un frutto del percorso che il sistema capitalistico ha fatto in questo paese, bensì sono state strappate attraverso lotte dure, anche cruente, insomma, nei decenni scorsi, quando appunto il nostro paese chiaramente è stato segnato da un protagonismo soprattutto operaio e sociale in particolare, che purtroppo, insomma, poi per una serie di ragioni è andato scemando, e oggi evidentemente paghiamo anche le conseguenze della sconfitta di quella fase storica. Ma tant'è, insomma, ci ritroviamo a fare i conti con una riforma delle pensioni articolata in diversi punti, che praticamente ha fatto innanzitutto man bassa delle pensioni di anzianità, ha eliminato, insomma, le cosiddette perequazioni, quindi ha congelato, come si dice, le sopravvalute, gli adeguamenti, insomma, pensionistici, ha e di fatto sancito la fine per chiunque del sistema pensionistico calcolato con il sistema retributivo, cioè quindi il passaggio totale al contributivo, e soprattutto l'innalzamento appunto dell'età pensionabile per uomini e donne. E poi una riforma del lavoro che ha stracciato praticamente l'articolo 18, perché, come si commentava prima, ormai, insomma, quello della reintegrazione è rimasta, insomma, una strada assolutamente residuale, perché di fatto, insomma, permane soltanto per i casi dei licenziamenti discriminatori, anche se anche lì, insomma, poi magari sveleremo un particolare anch'esso degno di nota più tardi. Ma insomma, la questione della mancata giusta causa non comporterà il reintegro per i licenziamenti che vengono valutati con fattispecie riguardante questioni di carattere economico, che vuol dire che quando, insomma, almeno da un punto di vista formale ci si rifà, insomma, a questa fattispecie, cioè per ragioni economiche, quando subentrano problemi di carattere organizzativo o di crisi, in realtà noi sappiamo benissimo, perché già fino a qualche tempo fa, cioè prima dell'adozione di questa riforma, che ancora deve passare in via definitiva, ma certamente lo farà, già prima era così, e cioè già prima molti licenziamenti, anche discriminatori, erano in realtà mascherati da esigenze di carattere economico. È sempre accaduto, si ricordava, ci sono anche delle statistiche in merito, licenziamenti avvenuti senza giusta causa per questioni discriminatorie praticamente non sono quasi mai avvenuti, o comunque sono sempre stati davvero pochissimi, ridottissimi in percentuale rispetto agli altri, e quindi insomma oggi ancora di più i padroni avranno libertà insomma di licenziare a loro piacimento, nascondendosi dietro la foglia di fico delle ragioni economiche. Peraltro insomma si è fatto un balletto incredibile, addirittura alla fine la Confindustria ha anche promesso battaglia. Insomma qua stiamo al solito gioco delle parti e non si capisce perché, perché gli hanno servito su un piatto d'argento la possibilità di licenziare più facilmente, eppure insomma sono andati anche loro sugli scudi, perché appunto poi c'è stata questa sorta di compromesso che evidentemente non solo era nell'aria ma era stabilito evidentemente già a monte, insomma, nel senso che è evidente che alcuni equilibri dovevano essere rispettati e le parti sono state accontentate tutte, tutte così, con questo tipo di riforma. Quindi non c'è assolutamente spazio insomma per trionfalismi di sorta. Il PD ha cantato vittoria perché appunto riguardo alla questione dei licenziamenti economici comunque non è scartato del tutto l'ipotesi della reintegra, ma lo hanno detto e confessato diciamo anche loro, questa è ridotta davvero al lumicino. C'è poi appunto questa questione che è esplosa, che è quella dei cosiddetti esodi, e cioè coloro che si trovano, come dire, tra il martello e l'incudine, perché sono stati posti in esubero dai datori di lavoro e poi insomma si sono ritrovati anche senza stipendio proprio per via della riforma pensionistica, e chissà quanti anni dovrebbero aspettare per ottenerla. Si parla addirittura che potrebbero restare 5-6 anni senza stipendio e senza pensione. Su questo io invito innanzitutto Ettore, ma prima di invitare Ettore ricordo comunque che erano state lanciate alcune questioni, anche delle proposte nel corso degli interventi di prima, in merito cioè alla costruzione di una assemblea cittadina di confronto su queste tematiche che rilanci l'ipotesi del conflitto a partire da diciamo il paletto dell'auto-organizzazione sociale, e poi in forma un po' provocatoria si era anche gettato il sasso in merito alla funzione rivestita oggi dai sindacati e magari insomma aggiungiamo anche dei sindacati di base. Dicevo, invito Ettore a magari fornirci qualche elemento di chiarezza rispetto anche a come il governo in queste ultime ore ha diciamo inteso far fronte alla questione degli esodati, perché a detta diciamo della Fornero la questione è risolta, nel senso che nel giro di 4 anni le risorse saranno stanziate. In realtà i calcoli che sono stati fatti relativamente alla prima diciamo finestra di esodati, e poi col tempo ci si penserà. Io dico che il governo non ha dato nessuna risposta se non quella di Polillo, che ha detto fate causa perché l'accordo che avete fatto si può dichiarare non valido, cioè fate causa ai lavoratori, ai padroni che l'hanno già cacciato fuori, dice dovete dire e il padrone non ti sei più uguale, perché pure con l'articolo 18 quando sei stato reintegrato il padrone non l'ha preso, ce ne stanno due, anzi tre, che sono stati reintegrati per due volte consecutive nel posto di lavoro e però le tiene fuori dalla fabbrica, gli dice te do lo stipendio ma non te faccio più lavorare, no? Perciò pure con questa protezione, perché quella è stata riconosciuta la discriminante pregiudiziale che c'è stata, stiamo a parlare di tre lavoratori della Fiat, perciò il governo non ha fatto niente. La Fornero ultimamente così gli ha buttato sto fumo il giorno dello sciopero degli esodati a CGIL e CISL e UIL, questi sono i numeri. Però per questi contraddizione in termini, lo sciopero degli esodati, vabbè, non lavorando non sciopero, vabbè, non erano sciopero, io ho definito così, era una manifestazione di questi, e lì ha detto eventualmente se superano i 60.000 persone vedremo di trovare riforme, di trovare risorse, sapendo che risorse non ci stanno. Sti giorni stanno a parlare forse di altre manovre, di recuperare, di aumentare, perché risorse non ci sono, anche se la riforma delle pensioni ha fatto un bottino di quasi 17 miliardi l'anno, che vanno tutti alle banche perché devono pagare il debito, gli interessi alle banche. E noi lavoratori, perché i lavoratori ormai non prenderanno più quello che accumulano da parte, che sia contributivo, che sia retributivo. Perché a 66 anni, 70 anni va in pensione, per poter versare mediamente un lavoratore versa dalle 360 a 400 mila euro nell'arco della vita di contributi. Fatevi i conti da solo per vedere quanti anni dovete campare per rientrare i soldi che avete messo da parte. Una pensione media è intorno ai 1000 euro di chi ha i contributi buoni, perciò ognuno si può fare i conti da solo. Io volevo dire una cosa che è venuta pure su sta cosa senza... C'è stato un rapporto del Fondo Monetario Internazionale che è uscito per 3-4 giorni, è stato sui giornali, il quale diceva: guarda, noi non reggiamo più il livello dello Stato sociale, il welfare, dobbiamo trovare forme diverse. Dice, perché se da qui al 2050 dovrebbe scattare l'aspettativa di vita, che oggi l'hanno fissato a 80 anni loro, no? Se da qui al 2050 lo sviluppo scientifico delle medicine, della cura delle persone aumenta così che fa elevare la vita a 82 anni, implode il sistema, non la reggiamo più, dobbiamo trovare forme diverse. E in questi dibattiti uscivano i suggerimenti pure. Qualcuno ha fatto esempi nell'antica Roma come hanno fatto, ma qualcuno è andato sul recente, cosa hanno fatto in Unione Sovietica quando è caduta l'Unione Sovietica. Hanno azzerato per 10 anni la sanità, e l'aspettativa di vita dei sovietici è scesa di 10 anni. Ancora la devono recuperare, no? Anche se adesso si è ripreso, no? Un pochettino. Allora, forse era un suggerimento e lo stanno già facendo. Perché in Italia curarsi diventa molto, ma molto costoso. Tanti sono gli anziani con queste pensioni miserabili, che rinuncia di fare analisi, di andare a comprare medicine, di trovare. Già stanno facendo quell'operazione, lo dicono, però nel frattempo è in atto. È in atto un'altra operazione che va, sembrano scollegate. Nel Parlamento Europeo stanno discutendo una legge proprio, guarda, manco farla apposta, presentata dal professor Monti, no, dal presidente del Consiglio Monti, quando era professore, in una consulenza lui ha elaborato questa proposta di regolamentare il diritto di sciopero a livello europeo. E tra le forme che prevede, copia molto della nostra legge e della 146 del diritto di sciopero nostro, in cui però c'è un aggravante, vale per tutti, anche per il settore privato, per l'industria, che i scioperi possono essere concessi e compatibili nell'interesse economici. Se qualcuno dichiara che se tu fai uno sciopero alla Fiat dice mi blocchi il mercato in questo modo, non è legittimo, può non fare precettazione. Pertanto tu per scioperare devi chiedere permesso al padrone. Posso fare 2 ore di sciopero? No? Glielo devi chiedere. E questa è la legge, ne stanno discutendo, in atto nel Parlamento Europeo. In Italia c'è una proposta di legge che già sta in commissione per regolamentare la questione dei conflitti, e dice che quando uno protesta, se fa un blocco stradale, può essere arrestato in flagranza di reato con l'imputazione di sequestro di persona, rischiando 5, 6, 10, 15 anni secondo la gravità. Un blocco stradale solo, cioè uno ti ferma, ti può arrestare e ti possono ovviamente arrestare successivamente con le fotografie. È una legge che sta in Parlamento. Pertanto questi stanno facendo quello che gli pare, quello che è successo sabato ai Castelli, no? Una provocazione vera dalla polizia, a manifestazione sciolta, andate a inseguire la gente che stava rientrando, ognuno per conto suo alle proprie macchine, alle proprie case, e ha fatto un arresto, 40 denunciati, 40 identificati e via dicendo. Ormai l'arroganza è totale. Stanno marcando su questo perché vogliono andare ancora più pesante delle riforme che stanno facendo. E non a caso queste riforme passano lisce come all'olio, non si confronta con nessuno. Quando parla di pensione, quando si parla di lavoro, non ci sono tavoli né notturni né diurni con nessuno. Quando si parla di altre cose, si vedono, si rivedono, si rifedono, modificano, cambiano, aboliscono, no? Basta vederlo cosa sta succedendo questi giorni fino a ieri sera. Se si parla di frequenze televisive, si tratta fino alla fine, se no, oppure la marcia Gaglià alza la voce subito, tutti si allarmano, Passera ci fa subito gli accordi, sta tranquilla, ti calmiamo, Monti che interviene dalla Cina per dire, guarda, non ti preoccupare che è un trucco, no? Però l'altri no, però stiamo qua a ritornare. Io sono d'accordissimo, ma magari si facesse almeno qui a Roma un'assemblea cittadina che magari dura pure più della giornata, perché se ci avevamo da discutere di parecchie cose sarebbe il caso di autoconvocata dei conflitti sociali, di sparsi nel Roma, nel provincia, diciamo, no? Comitati dei rifiuti, comitati di lotta per la casa, comitati dei precari, comitati di lavoratori auto-organizzati, realtà individui, semplici persone che vogliono arrivare a trovare una forma di discutere come dare una risposta, a prescindere dalle restrizioni repressive che questi vogliono mettere qua, senza scandalizzasse, no? Se magari un cassonetto si rovescia quando vai a fare una manifestazione, di no, no alla violenza, no alla soppressione, che okay, no? Ma questo va comunicato pure ai cittadini, che è meglio un cassonetto bruciato che una vita distrutta. Non solo da adesso, ma da una generazione si distrugge, perché non è che stanno distruggendo i vecchi, stanno distruggendo i giovani, tutto a nome dei giovani. Che cazzo, io questo dico, qualcuno telefonasse, sei giovane, e mi dice che cosa ti sta entrando, hanno levato tutto ai vecchi, i privilegi, i diritti, quali sono questi privilegi? A parte che i diritti sono stati conquistati e hanno avuto degli avanzamenti quando il conflitto era forte, era pesante, e allora nessuno ti toccava, anzi te l'allargavano. Come il conflitto è rientrato nella normalità sotto il controllo, ti stanno levando tutti. Se oggi non rispondi fortemente su sta cosa, è inutile che ve sfogate con l'antipolitica, rubano i soldi, i finanziamenti, è una stronzata, vi stanno facendo perdere tempo, ti stanno rubando la vita, il futuro, ti stanno a levare tutto. Oggi, dopo 40 anni, io sono uno di quelli che la Fornero l'ha bruciato secco. Io a maggio faccio 40 anni, no, 60 anni. Arrivavo al padramero fissato da Riforma Dini, il limite minimo di età, e faccio 40 anni di contribuzione, cioè sono 40 anni che verso i contributi. Ma io ho cominciato molto prima, se ce l'avessi avuto prima, i 40 anni l'avrei fatto di prima, ma molti sono stati lavori in nero prima di avere una stabilizzazione. Beh, a 60 anni, acciaccato come so, questa mi ha detto che ci devo restare in altri 6 anni, a prescindere dal periodo contributivo. Ma come a me, so migliaia e migliaia di persone, specialmente i dipendenti pubblici, che non possono più uscire. Ma come fa a dire che dammo lavoro ai giovani quando io ci devo stare per forza legata a sta scrivania che non mi posso muovere? Ci devo stare in altri 6 anni. Allora, l'operazione è questa, siamo d'accordo. Lui poneva questo problema, che a me mi sciocca un pochettino, poi non è che ne voglio fare. oggi la gente c'ha bisogno di sopravvivere. È chiaro, o fanno una battaglia, diciamo, volemo un reddito minimo garantito a tutti e troviamo le risorse subito. Ci sono, secondo me, di fare queste battaglie. Mettere dei tetti sopra i 5.000 euro non si paga nessuno stipendio e non si può accumulare 2, 10 incarichi, 24 come ce l'ha l'Inps, come ce l'ha Mastro Pasqua, l'urlo di un comasso mia quando guardate. Lo dico perché purtroppo il mio presidente lo conosco direttamente. L'urlo di Unco. E beh, quello prende 1.200.000 euro l'anno. C'ha 24 incarichi. E muccole, e mucchia, queste saranno diventate pensione. Andrà in pensione in base a 1.200.000 euro l'anno. E noi dobbiamo mettere per forza i tetti. I soldi che si risparmiano devono garantire il reddito minimo. Su questo dovremmo ravosciare i cassonetti. No, la partita. I partiti rubano, fanno e via dicendo. C'è una telefonata? Sì, allora, c'è una telefonata, la prendiamo. Sei in linea, pronto? Pronto, ecco, sono Gavino. Dunque, il discorso è questo. Io capisco che gli argomenti sono tanti e vanno trattati tutti, però io vorrei soffermarmi su un argomento abbastanza importante che viene trattato generalmente un po' così, ma non dico da Radio Onda Rossa, generalmente dai media, è quello dell'aspettativa di vita. Secondo me l'aspettativa di vita, ma questo è confermato anche da dati che si possono rilevare tranquillamente, non è così alta come si dice, 80 anni, 82 anni, nonostante quelle che possono essere le ricerche scientifiche che verranno fatte in futuro. Perché se noi andiamo a vedere i registri dei decessi negli ospedali, ci accorgiamo che invece i decessi sono molti, sono dovuti tutti a malattie dovute all'inquinamento e a fatti di questo genere, che si possono attribuire a fatti di inquinamento, e ce ne sono parecchi, e l'età media della vita si sta notevolmente abbassando, quindi il fatto di pensare agli 82 anni è un mito che ci viene messo davanti, ci fanno credere, vabbè ti andrà male ma puoi avere la possibilità, come fosse un biglietto della lotteria, di vivere fino a 82 anni, niente affatto, niente affatto. Intanto in molti ospedali i registri non vengono neanche tenuti, mentre invece dovrebbero essere tenuti. E questa cosa qui non viene detta, da nessuno è andato a vedere nelle cliniche, negli ospedali, anche quelli pubblici, quali sono questi registri, che vengono spesse volte anche manomessi. Quindi se noi vogliamo vedere un po' qual è l'aspettativa di vita, dobbiamo andare proprio alla fonte delle questioni, e una volta per tutte andarlo a vedere, a smentire il discorso mitologico degli 82 anni. Non è un biglietto della lotteria la vita. Io è questo che volevo sottolineare. Siccome non viene mai affrontato il discorso dei registri tenuti negli ospedali in rapporto all'aspettativa di vita, e volevo sottolineare questo. Vi ringrazio. Buona continuazione. Va bene. E saluti a tutti. Grazie mille, grazie a te del tuo contributo. Allora, sì, tra l'altro, insomma, appunto, anche in considerazione di quello che diceva l'ascoltatore e un po' anche riguardo quello che diceva Ettore prima a proposito di questa, non so come chiamarla, se una butade, in realtà era un vero e proprio rapporto, insomma, dell'FMI riguardo la possibilità che il sistema imploda proprio sotto il peso, il macigno, insomma, della previdenza sociale, perché appunto le aspettative di vita si sarebbero innalzate e quindi, insomma, i soldi, la coperta sarebbe, insomma, troppo stretta. E sottilmente, insomma, quasi si allude, non lo so, alla decimazione, evidentemente, ma ecco, importante, perché tra l'altro proprio ieri sera sembra sia passata questa questione legata al bilancio in pareggio all'interno della Costituzione. Ora, al di là del fatto che noi keynesiani non lo siamo mai stati, però il discorso del deficit spending, insomma, in un modo o nell'altro può essere considerato utile proprio in riferimento a quello che diceva Ettore prima, riguardo ad esempio la sanità. Cioè, di solito, se un diritto è concepito in termini universalistici, dopo i 70 anni non te curiamo più. Ecco, esattamente, cioè laddove insomma poi in tempo di crisi come oggi, insomma, appunto le risorse dicono che non ci sono, le imprese non investono, eccetera, eccetera, eccetera, beh, evidentemente insomma da qualche parte bisognerebbe pur prenderle delle risorse per ad esempio andare a coprire le prestazioni sanitarie, infortunistiche e quant'altro. Di fronte invece a un bilancio alla parità di bilancio messa all'interno della Costituzione, diventa tutto molto più difficile. Quindi probabilmente questo discorso non solo magari potrebbe essere affrontato in termini proprio squisitamente keynesiani e quindi come funzionale al rilancio della domanda aggregata, eccetera eccetera, e quindi da questo punto di vista potrebbero essere d'accordo coloro i quali sostengono che da questo periodo di crisi si debba uscire appunto rilanciando la domanda, eccetera eccetera, ma soprattutto credo sia importante il fatto, quest'altra questione insomma, e cioè: può questo discorso portare all'azzeramento delle prestazioni sociali, sanitarie e via di seguito? Probabilmente anche questo è un elemento di cui tener conto. Sì, no, mi ricollego a questo aspetto, a queste ultime considerazioni anche rispetto all'aspettativa di vita e anche in considerazione del ragionamento che faceva Ettore sul discorso del reddito, eccetera, eccetera. Semplicemente per dare una notizia e collegandomi a questa notizia fare una piccola riflessione. La notizia è questa, la prendiamo da un articolo del Sole 24 Ore del 15 aprile, e cioè che anche in Italia si avvia ad essere introdotta alcune assicurazioni, l'hanno iniziata a proporre una nuova polizza assicurativa di responsabilità civile, no? Come noi abbiamo l'RC auto, adesso c'è l'RC licenziamenti. In che senso? Nel senso che appunto l'impresa, visto che sostanzialmente con l'abolizione della possibilità del reintegro sul posto di lavoro, tutta la questione si giocherà sull'indennizzo e quindi risarcimento al lavoratore per il licenziamento, appunto questa polizza assicurativa che possono fare le imprese con appunto le società di assicurazione copre le imprese stesse da le problematiche al riguardo. Io vi leggo, sono poche righe, no? Quindi per questo ve le leggo di come viene presentata questa nuova polizza, no? E dice: con questa nuova polizza sono presi in considerazione i licenziamenti ingiustificati, illegittimi, discriminatori o ingiuriosi, ma anche le molestie sessuali, razziali o comunque antidiscriminatori fondati su età, sesso, opinioni politiche, attività sindacali, stato di gravidanza. Inoltre vengono contemplate, sempre nella polizza, anche le violazioni delle norme sulla privacy o le attività di mobbing e le attività di demansionamento. Che significa tutto questo? Che se appunto un lavoratore subisce una di queste peraltro gravissime azioni, no? Che arriviamo fino alla violazione di norme penali, ma noi sappiamo bene che il codice penale si applica esclusivamente ai poveri, ai proletari e non certo ai padroni, e quindi si va a una causa in tribunale e magari disgraziatamente il lavoratore la vince e quindi a quel punto ha un risarcimento. Questo risarcimento viene coperto dalla polizza assicurativa, così che l'impresa insomma si tutela da questo tipo di situazione. E ci spiegano che questo tipo di polizze sono già largamente diffuse nei paesi anglosassoni, in particolar modo negli USA e nella Gran Bretagna, dove già da tempo insomma i conflitti nell'ambito del mondo del lavoro non passano fra conflitti di classe, ma come conflitti individuali. Quindi chiaramente quando il rapporto si riduce all'individuo lavoratore o lavoratrice e l'impresa, oltre a essere un rapporto assolutamente squilibrato a favore dell'impresa, ma è un tipo di relazione che stimola la conflittualità anche all'interno dei tribunali. A chiusura di questo articolo, l'articolista ci dice: la loro diffusione anche in Italia rappresenta anch'essa, dopo tutto, un fattore di modernità. Allora, questo lo dicevo per dire, però mi no vai perché mi interrompo, che c'è una telefonata, poi riprendo il ragionamento. Allora, eccolo, dovresti essere in linea. Pronto? Pronto. Ciao. Pronto, ciao. Senti, io sentivo questa tua trasmissione che trovo molto molto interessante. Volevo dare la mia testimonianza dalla Germania, nel senso che ho fatto un'attività in Germania di 3 mesi e sono stato a Berna. Allora, io mi occupo di computer, però senza farla lunga sul mio lavoro, volevo dire alcune cose che in televisione non dicono. Allora, senza stare a ricordare quanto guadagnino in quel contratto che è il contratto per gli operai, che è un po' come il nostro vecchio metalmeccanico, che prendono quasi una volta e 80% in più di noi, cioè il 180% del nostro vecchio contratto metalmeccanico. Loro facevano, altra cosa che non dice nessuno, 35 ore fino a febbraio del 2010. Adesso fanno 32 ore settimanali da febbraio 2010, quindi da 2 anni. C'è un'altra cosa, si chiama Eisen Gewerkschaft, che sarebbe il sindacato del ferro, Eisen da ferro. Praticamente questo sindacato regola tutte le attività lavorative, anche per aziende che hanno 3 dipendenti, ok? E come le regola? Alla fine dell'anno tutte le aziende, grandi, medie e piccole, hanno un dividendo. Mi spiego, mi sentite? Come no, certo. Allora, questo dividendo viene suddiviso tra gli azionisti ed una fetta che è regolata per legge, che me l'hanno pure detta ma non me lo ricordo, è una fetta presa dalle che, cioè da questo dal sindacato. Quindi nella fine, voglio dire, quando si dividono i dividendi aziendali, il sindacato prende una fetta, che è una fetta cospicua, e questo è il divertente, altra cosa che non dicono, riversa a pioggia sui dipendenti di quell'azienda lì, cioè che non è che vengono dati più mansioni e più soldi alla parte dirigenziale, ma a fine anno questa fetta presa in tutte le aziende che siano regolate con le leggi, cioè tutte, tranne nel settore della coltivazione, che è una cosa diversa, in tutte le aziende, anche se sono di 10 dipendenti. In più volevo dire un'altra cosa molto importante, aspettate che forse me la sto dimenticando, che era una cosa importante da dire del funzionamento in Germania, non solo rispetto a quello che sono i dividendi dell'unico sindacato che c'è. E, praticamente, ecco sì, in pratica in Germania la disciplina sulla fine del rapporto di lavoro, se un lavoratore non lavora, è regolata esclusivamente sulla base delle prove che vengono portate dall'azienda, cioè è l'azienda che deve dimostrare la tua mancanza, altrimenti non c'è storia, tu non vieni nemmeno, non puoi essere, diciamo, messo fuori dall'azienda, cioè prima l'azienda deve fare un percorso legale e ti viene detto, dopo che fa il suo percorso legale, alla fine il giudice valuta e ti dice direttamente il giudice che devi lasciare il posto. Io volevo dire tutte queste cose perché parlano molto della Germania, ma in realtà io penso che si voglia affrontare il problema perché la Germania fa tornare i conti, cioè tenendo in piedi questo meccanismo e anche altri meccanismi di finanziamento, di caso di sussidio, diciamo, no? La Germania è come se dimostrasse che la finanziarizzazione che abbiamo avuto dalle nostre parti non va bene per la produzione industriale. E invece sono proprio queste cose che ti rendono più forti sul mercato. Niente, questa era la mia testimonianza che vi volevo dare, perché questo è quello che succede in Germania questi sono i parametri, le condizioni lavorative, e questa è la realtà. Loro invece vogliono fare un discorso di spread, ma no, tu comportati come la Germania, non stare a guardare lo spread tra te e lui. Loro, secondo me, questa è la mia opinione, non è un fatto, i fatti sono quelli che ho raccontato, ma la mia opinione è che loro ti focalizzano sullo spread perché non vogliono che tu adotti quel modello. Questo è quello che volevo dire, ragazzi. Va bene. Saluti. Grazie, grazie, ciao. Beh, sicuramente insomma può essere molto interessante anche arrivare a definire sotto l'aspetto comparativo questi aspetti, e sicuramente non, non diciamo affatto un'eresia se, ma è una constatazione piuttosto scontata che insomma in Germania comunque le cose funzionino meglio, anche dal punto di vista, diciamo, della protezione sociale, ma dal punto di vista salariale. Questo però non vuol dire, insomma, che poi le politiche non si siano più o meno tutte adeguate ad un unico verbo, che è quello appunto comunque liberista. È chiaro, insomma, che poi tradizioni, politiche di welfare differenti cambiano anche la vita delle persone, le condizioni chiaramente le persone migliorano, questo è chiaro. E riprendendo il ragionamento che facevo prima, perché poi appunto qua ci inoltreremo insomma sugli aspetti relativamente al modello di capitale, alla divisione internazionale del lavoro, quindi al modello cogestivo presente in Germania e così via. E, però appunto adesso non volendo ulteriormente ampliare i ragionamenti, quello che stavo facendo prima appunto relativamente anche all'aspettativa di vita e al discorso sul lavoro che insomma si è provato a introdurre, è un ragionamento che secondo me va preso a partire da un dato: che cosa rappresenta il capitale all'interno della società. Il capitale rappresenta il lavoro morto, il capitale è una rappresentazione di morte nei rapporti sociali, ed è l'asservimento appunto del lavoro vivo al lavoro morto l'obiettivo insomma che le aziende hanno per la produzione dei profitti. Questo lo dicevo per dire, ma c'è una nuova telefonata, quindi mi interromperò nuovamente per dire perché una concezione lavorista, e quindi che pone al centro l'assoggettamento dei proletari alla loro funzione di produttori di plusvalore, sia una concezione che non ci porta ad altro che al disastro che stiamo attraversando. Pronto? Sì, pronto. Ciao. No, ciao a tutti. Io mi è venuta la voglia di telefonare precedente. E sinceramente, fra compagni, secondo me dovremmo riuscire a aprire un po' gli occhi e cercare di allinearci meno a quella che è la vulgata fondamentalmente del potere della borghesia e di chi ci vuole far credere che le problematiche che stiamo vivendo oggi siano dovute a una scarsa efficienza del sistema italiano. Sì, salta un po' la comunicazione, per cui ecco. Allora, preghiamo magari l'ascoltatore di richiamare, magari di mettersi o in un punto in cui non casca la linea, oppure insomma, non lo so se forse c'è, gli è finito il credito, non lo so. Comunque, se vuole può tranquillamente provare a ricontattarci che va in diretta. Oh, però, dicevo questo. Eccolo qua probabilmente. Eccoci, allora no, non vado avanti. Aspetta. Ecco qua che lo rimandiamo in diretta. Questa è sempre Radio Onda Rossa 87.900 MHz. Vai. Pronto? Sì, eccoci. E c'è il telefono difettoso, eh? Guarda, sentiamo molto male. Sentiamo molto male. Se ti metti in un altro punto, forse. Forse adesso. No, ci arriva la voce molto metallica, ecco. E ricadde. E ricadde. Va bene, sempre in attesa, insomma, che riprenda questa telefonata, io dico, ecco, rilancio un attimo la proposta che si faceva prima, cioè costruiamo un momento di confronto e di dibattito orizzontale che direttamente metta in, a confronto le diverse istanze sociali che comunque faticosamente si provano a produrre all'interno della città, e nel quale anche capire insomma quali possano essere i riferimenti, le parole d'ordine, gli obiettivi per la costruzione di un conflitto che sia effettivamente diffuso. Oramai è un anno e mezzo insomma che viviamo momenti di esplosione della rabbia all'interno della nostra città, no? In primo ricordiamo sia il corteo del 14 dicembre del 2010 che quello del 15 ottobre del 2011. Forse è il caso insomma di una riflessione che sia un po' più organica. Riproviamo di nuovo la telefonata. Pronto? Eccoci, ci riproviamo. No, voglio dire, purtroppo leggere i dati non è facile, tanto più quando si subisce una propaganda mistificatoria sprombattuto su tutte le televisioni e su tutti i giornali, ma la realtà è che le disuguaglianze in Germania sono cresciute più che in qualunque altro paese negli ultimi 10 anni. C'è una dinamica di segmentazione del mercato del lavoro, cioè fra lavoratori protetti e non protetti, che ha consentito alla Germania, esternalizzando molte produzioni, di abbassare moltissimo il costo del lavoro, di fare deflazione competitiva e dunque di danneggiare la competitività soprattutto dei paesi dell'area del Mediterraneo, come l'Italia, come la Spagna, come la Grecia, come il Portogallo. Questo ha consentito, attraverso questa politica mercantilista, di mettere in ginocchio paesi come il nostro, che sono gli unici veri competitori di un paese manufatturiero esportatore come la Germania. Le favole sul fatto che la Germania è un paese di virtuosi dove tutti si comportano bene, i padroni sono bravi e danno i dividendi ai lavoratori, veramente leviamocelo dalla testa, perlomeno noi. Lo può pensare un pariolino che legge La Repubblica, ma chi tutti i giorni è costretto a fare i conti con che cosa ha significato l'euro liberista, l'euro di marca mercantilista tedesca, i lavoratori lo sanno bene perché lo provano sulla loro pelle. Qui non è un problema di essere bravi o di essere cattivi, ma è un problema di reazione padronale in termini liberisti, che fa gioco ai padroni italiani che chiaramente hanno comodità a portare avanti riforme di questo tipo, è un approccio mercantilista dei paesi dell'area del Marco che hanno giocato attraverso la deflazione competitiva a mettere in ginocchio i paesi dell'area del Mediterraneo, e tant'è che si stanno comprando a prezzi di saldo tutto quel poco di industria che è rimasto di questo paese. Se vogliamo rendercene conto, aprire un dibattito su di questo, sul da farsi, bene, se no continuiamo a pensare che le ricette tedesche sono le migliori e andremo avanti a guadagnare 600 euro al mese, se ci piace vivere così. No, no, ma non so se appunto tu hai ascoltato un po' tutta la trasmissione, cioè proprio quello che noi stiamo cercando di proporre è proprio di un confronto insomma orizzontale fra proletari e proletari insomma rispetto alla situazione. Abbiamo fatto un breve accenno, non era il centro della trasmissione. Scusami, perché io poi per chiamare ho spento la radio, quindi non vi ho sentito evidentemente. Okay. Dopo nel commento. No, proprio perché abbiamo fatto anche un breve accenno, ma non era il centro della trasmissione, quindi non ci siamo voluti soffermare più di tanto sul fatto che chiaramente il modello tedesco vede un ruolo dei sindacati nella cogestione dello sfruttamento della forza lavoro, vede anche una divisione internazionale del lavoro che assegna a quella frazione di capitale internazionale un ruolo suo ben specifico, quindi nessuno di noi è diciamo innamorato del modello tedesco, ma peraltro neanche del modello scandinavo o di qualunque altro modello capitalistico. No, ti do notizia del fatto che oggi l'Audi si è comprata il pacchetto di maggioranza della Ducati, una delle poche aziende italiane ancora vive, fra virgolette. Insomma. Sì, peraltro. Quindi voglio dire. Oggi è anche forse un po' discutibile parlare in termini di capitali nazionali, visto che veramente riuscire a individuare si può dire soltanto della residenza del supposto azionista, perché poi insomma, assolutamente, però stiamo attenti che tante volte queste narrazioni gli fa molto comodo farcele credere, perché così, come dire, la controparte non è facile da individuare, però stiamo attenti perché poi ciò che viene percepito anche da chi subisce le conseguenze di tutto ciò è che ti levano anche l'ultimo lembo, il significato dell'ultimo lembo di terreno che hai sotto i piedi. Quindi questi temi vanno analizzati con molta attenzione, perché loro sono transnazionali, ma noi siamo ancora, tra virgolette, nazionali nei termini dove siamo, in che lingua parliamo, con chi abbiamo a che fare tutti i giorni. E quindi, per carità, sono d'accordo con quello che dici tu, però secondo me da questo punto di vista ha fatto una riflessione molto seria fra noi, perché altrimenti rischiamo che poi temi molto rilevanti, soprattutto per i lavoratori, ci vengono sottratti da chi non vorremmo mai. Sì, sì, siamo perfettamente d'accordo sul fatto che vada fatta una riflessione, appunto per questo ritorno alla proposta che facciamo di un'assemblea cittadina, insomma, che sia non vincolata alla scadenza, ma vincolata alla costruzione di processi di conflitto diffuso. Voglio dire, teniamo conto che in questo momento l'euro in quanto tale, io ne parlo da studioso di economia, nel suo significato economico è uno dei più grossi nemici dei proletari dell'area del Mediterraneo, perché è uno strumento che sta venendo utilizzato come una clava su questi paesi, su quest'area del mondo, e voglio dire, su questo è necessario fare una riflessione, quantomeno la proposta politica conseguente, insomma. Sì, tra l'altro, insomma, hai anche ragione nel dire che va, diciamo, allontanata la questione delle delocalizzazioni come spauracchio, insomma, ulteriore per frenare ipotesi di, diciamo, resistenza. Anche insomma, come il fatto che stiamo attenti che il capitale, quando gli fa comodo, è molto più nazionalista di quello che pensiamo. Sicuramente la Goldman Sachs è internazionale, ma ci mette poco poi a ricordarsi qual è il territorio di pertinenza, insomma, voglio dire. E quindi è bene che uno non perda i punti di riferimento da nessun punto di vista, se non altro perché possono servire come strumento di azione politica, diciamo. Va benissimo, grazie, grazie. Presto. Ciao. Ciao. Beh, insomma, il dibattito si è fatto anche interessante per queste, diciamo così, suggestioni analitiche e macroeconomiche pure, insomma. Però ecco, tra l'altro si sono anche fatte le 12:42, quindi tra poco, insomma, dovremmo anche chiudere questo spazio. Per cui, ecco, andando appunto in sintesi, magari è il caso di soffermarci un pochetto su questa proposta di assemblea cittadina, magari lo possiamo fare anche spiegando un po' meglio questa giornata del 25 aprile, nel senso che comunque la strada, diciamo, della presa di parola, del protagonismo, diciamo, dal basso, senza mediazioni di sorta all'interno dei luoghi di lavoro, non è che sia una strada così impossibile da percorrere, certamente molto difficile, certamente una strada in salita, ma in alcuni luoghi di lavoro questi tentativi vengono fatti, purtroppo, insomma, sono pochi e forse fin troppo sporadici, e proprio per questo probabilmente l'esigenza, insomma, di collegarli è ancora più forte, no? Sì, no, appunto, perché giustamente andiamo a concludere, quindi fermo restando e lasciamo sul terreno questa proposta, poi per quanto ci riguarda ci proveremo a lavorare nelle prossime settimane. E, ricordiamo appunto due appuntamenti, uno quello del 25 aprile, che dicevamo una giornata, insomma, che... E come si ricordava prima, in cui l'insurrezione contro il nazifascismo ebbe fra i suoi punti centrali la dichiarazione dello sciopero generale, noi molto molto molto molto più in piccolo e modestamente invitiamo, insomma, gli ascoltatori e ascoltatrici, i compagni, le compagne, insomma, tutte coloro che vogliono a essere presenti dalle 9 della mattina per un'assemblea sul piazzale antistante i negozi Leroy Merlin e Ikea, il centro commerciale Porta di Roma, appunto, visto che è stato indetto lo sciopero, qui il centro commerciale e tutti i suoi negozi saranno aperti, quindi un'assemblea là davanti dalle 9 più o meno alle 12, visto che poi dopo l'assemblea ci sposteremo per mangiare insieme, insomma, anche per un aspetto di socialità all'interno dell'Orto Insorto, sito in via degli Angeli 140, quindi anche chi non potrà venire all'assemblea ci può comunque raggiungere a via degli Angeli 140 dalle 13 in poi. L'altra cosa che segnaliamo è sabato 21, sabato prossimo, presso la, se non ricordo male, la città dell'altra economia, verrà uno spazio di confronto e dibattito sulla questione degli infortuni sul lavoro, con al centro l'intervento del collettivo dei lavoratori, degli operai dello spettacolo, che da alcuni mesi, insomma, a partire da, purtroppo, da due eventi estremamente pesanti, la morte di Francesco Pinna durante la costruzione, appunto, della l'installazione, insomma, per il concerto di Jovanotti a Trieste a dicembre scorso, e poi la morte di Matteo, un altro lavoratore del settore, invece durante il concerto di Laura Pausini a Reggio Calabria a febbraio, appunto si stanno confrontando, e lì Basta Morti sul Lavoro ha organizzato questa giornata, questo momento di confronto, che può essere anche quello un momento interessante di dibattito. Perfetto. Ettore, credo che anche tu magari vuoi... No, io dico è sufficiente, voglio... No, è sufficiente, insomma, la discussione dovrebbe essere approfondita, alla risposta sempre del discorso di superare la questione di essere schiavi del lavoro, mi ero fatto due conti, dato che l'INPS è diventato il mega ente, e essendo un dipendente, solo la gestione delle buone uscite dei dipendenti pubblici che oggi gestisce l'INPS, cioè sono accumulate, no? Sai, i dipendenti che non hanno messo al fondo pensioni integrative, quello che è il TFR, per i privati, solo quello sono 3.500 miliardi, molto più del debito pubblico. Che queste risorse tenute là, chissà che uso ne fanno lo Stato, l'INPS, sarebbe il caso di dover utilizzarle per finanziare sviluppo, no? Queste risorse che ogni lavoratore accumula mese per mese. Se poi ci aggiungiamo tutti i TFR dei lavoratori privati, quando noi diciamo i soldi, le risorse non ci sono, ci sono e le cacciamo solo noi, solo che lo utilizzano l'altro. Almeno i soldi che cacciamo noi, quelli diretti, quel salario indifferito come viene definito, dovremmo avere parola, no? Per poter... Ecco, un elemento per unificare e alimentare il conflitto, anche quello che dici tu, di superare la schiavitù del lavoro, no? Perché le risorse stanno lì, e solo che senza considerare quelli che poi accumulano, ammucchiano e via dicendo, perché poi le piano da questi fondi che mettiamo da parte nostro, che a noi ci viene chiamato salario differito, ma poi questa differenza, dato che è differito non ce lo danno mai, ha capito? È ora che cominciamo a trovare una formula da dire, cominciamo a utilizzarlo mano a mano che ci serve. Tutto qua, con la speranza che questa assemblea cittadina, che da trasmissione è stata lanciata, spesso mi sollecitano anche alla trasmissione della domenica mattina, parecchi mi dicono come promuovala tu come trasmissione, no, la radio non può promuovere assemblee di questo tipo, abbiamo lanciato per chi ci ascolta si mettesse in moto a livello di soggettività anche singola, in modo che si prepara, si organizza e si va a un confronto reale, senza limitare, come qualcuno ha fatto dell'assemblea, ha detto chi non è d'accordo con me non ci viene, però vuol parlare a nome di tutti. Abbiamo avuto questa cosa dopo il 15 ottobre, no? Che qualcuno ha chiamato un'assemblea per discutere del 15 ottobre e ha detto però chi non è d'accordo con me non ci venisse. Noi diciamo veniteci tutti a questa assemblea cittadina. Io mi auguro che qualcuno veramente la prende sul serio, si nascono, dato che nascono tanti coordinamenti collettivi, facciamo un coordinamento, troviamo il modo, in modo che la chiamiamo e se necessario la prepariamo anche con una discussione ampia, dettagliata, anche su due giorni possiamo pure trovare il modo dentro spazi che magari ci ospiterebbero come aree sociali liberate, che ci potrebbero ospitare, un confronto tra precari, tra chi lotta per la casa, tra gli auto-organizzati, auto-indipendenti, chiamiamoli come disoccupati, gente qualunque, che però c'ha in testa un concetto di classe che vuole cominciare realmente a fare a rispondere all'aggressione di classe che ci viene fatta, perché quelli stanno facendo la lotta di classe e noi dobbiamo rispondere. Normalmente la lotta di classe la fanno le classi subalterne e stavolta sono le classi dominanti che la stanno a fare. Rispondiamo con lo stesso metro che è capace, le forze proletarie l'hanno dimostrato più di una volta che sono capace di farlo. L'hanno dimostrato che i primi diritti del lavoro l'hanno conquistato con la Comune di Parigi, occupando e governando per 2 mesi quella città, e per poterli sconfiggere i 2 belligeranti capitalisti, perché c'era la guerra Francia e Prussia, hanno disarmato la loro guerra per un po' di tempo per andare insieme a sconfiggere quel progetto che era la Comune di Parigi. Perciò fra di loro, qua noi si mettono insieme e fra di noi ci dividiamo, facciamo l'assemblea. E allora, comunardi e comunarde all'ascolto, vediamo insomma quali possono essere gli ulteriori passaggi per costruire realmente un'assemblea di questo tipo. E magari insomma se ne dibatterà ancora su queste frequenze, quindi il redazionale finisce qui. Tra poco ci sarà il giornale radio delle 13 e prima però dovremmo provare a vedere, insomma, di contattare l'avvocato che si sta occupando della questione, insomma, del ragazzo che è stato trattenuto in arresto nella giornata di sabato ad Albano. Vediamo, insomma, visto che oggi c'era l'udienza, se è terminata e l'avvocato può dirci come è andata, viceversa, insomma, se così non fosse, cioè se ancora l'udienza è in corso, rimanderemo questo collegamento a dopo il giornale radio.